Volevo dirti quello che non son riuscita a dire mai, ed ho tenuto chiuso in me da troppo tempo ormai. Ma c'è un amore che non so più nascondere, perché adesso ha bisogno anche di te. Volevo dirti solo che sei sempre tu la mia allegria, che quando parli insieme a lei diventa folle gelosia per tutto quello che mi dai, anche quando non lo sai. Questo io volevo dire a te, di come quando non ci sei io mi perdo sempre un po', e poi mi accorgo che non so divertirmi senza te. Invece quando stai con me anche il grigio intorno a noi si colora della vita che gli dai. Com'è difficile dire tutto questo a te, che d'amore non parli mai, non ne parli mai con me. Forse perché hai paura come me di una risposta che ancora tu non sai qual è. Non son riuscita a dire mai, ed ho tenuto chiuso dentro me. Ma c'è un amore che non so più nascondere, perché adesso ha bisogno anche di te.